in primo piano. Bastano tre note, arriva la rassegna stampa. Con noi Giulia Crivelli, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno, buon venerdì. Assomigliano a quelli di ieri i quotidiani o hanno cambiato tema? In realtà questo tema della memoria corta un po' mi angoscia, nel senso che per due giorni abbiamo parlato delle tragedie in mare e oggi praticamente non ce n'è traccia. Parlerai tu di accoglienza, i due temi sono collegati, però purtroppo oggi si passa già oltre e si torna a parlare di politica, di nuovo Senato, di riforma costituzionale e ancora di Rai. Buona lettura. Grazie Irene. E cominciamo allora dal Corriere della Sera, che ha proprio il titolo principale su questa che viene chiamata la battaglia sul nuovo Senato. Sapete che una delle riforme più care a Renzi è quella sulla, appunto, che riformerà definitivamente il Parlamento. Usciremo, nelle intenzioni del governo, ma è una riforma ben avviata, potremmo dire così, archivieremo per sempre il bicameralismo perfetto. Le nostre due Camere, Parlamento e Senato, avranno ruoli diversi. Il Senato non dovrebbe più essere elettivo, ma su questo, e da qui il titolo del Corriere della Sera, battaglia sul nuovo Senato, su questo però ci sono sempre più dubbi, perché c'è la minoranza del PD che ha presentato i suoi emendamenti e tra questi c'è appunto il fatto di rivedere quella parte che rende il Senato non elettivo. Una delle principali argomentazioni è che anche la Camera dei Deputati sarà elettiva fino a un certo punto, perché purtroppo, come sapete, le liste sono ancora fatte in parte direttamente dai partiti, i cosiddetti nominati, quelli che poi una volta che si vota hanno comunque il seggio assicurato. E allora l'argomento principale di chi critica questa riforma è, tutto sommato, già la Camera dei Deputati non è poi così elettiva, almeno il Senato lo sia in parte. Vedremo, perché questa è una cosa che si risolverà alla riapertura del Parlamento. Sapete che da ieri i parlamentari sono in vacanza per i prossimi 33 giorni. Sulla prima pagina del Corriere della Sera però la fotonotizia è dedicata ieri alle commemorazioni di Hiroshima, perché ne abbiamo parlato tanto nei giorni scorsi, però il vero giorno in cui fu sganciata la prima bomba era il 6 di agosto del 1945, a Nagasaki toccò tre giorni dopo il 9 agosto, e allora ieri appunto c'è stata questa cerimonia a cui hanno partecipato molti giovani in questo tentativo di non perdere la memoria di quello che è stato. Vi segnalo dalla prima pagina anche l'analisi di Fiorenza Sarzanini sugli interrogatori, sui verbali degli interrogatori a Buzzi, Salvatore Buzzi, il grande accusato per lo scandalo della corruzione a Roma e soprattutto di tutti quei fondi che, anziché essere utilizzati al 100% per progetti sociali, erano sì dati alle cooperative, tutte quelle per esempio che facevano capo a Buzzi, ma ci sono anche altri accusati, e poi in realtà venivano usati per corrompere o per elargire stipendi e mazzette. E allora spiega Fiorenza Sarzanini che le accuse di Buzzi per i magistrati non sono credibili. Su questi verbali trovate cronache su tutti i giornali. Questa è un po' la voce di, appunto, di Fiorenza Sarzanini, che è una delle massime esperte italiane di cronaca giudiziaria, che cerca di fare un po' di ordine, perché quando filtrano i verbali si possono fare grandi titoli sui giornali, però poi appunto tutte le accuse vanno vagliate. In questo caso, secondo Fiorenza Sarzanini, i magistrati sono molto cauti nel valutare le accuse che Buzzi sta facendo soprattutto ai politici del PD, sia quelli che siedono in comune, sindaco Marino in testa, sia della provincia, sia della regione. Vi segnalo dalla prima pagina del Corriere della Sera anche un intervento di Wolfgang Münchau, che è un giornalista di origine tedesca ma che scrive per Financial Times, che torna sulla questione della governance in Europa, perché l'Italia deve imparare a dire no alla Germania. Anche questo è un argomento che ci siamo un po' persi per strada dopo le settimane in cui si è parlato tantissimo dello scontro e della predominanza della posizione tedesca nell'Unione Europea, e ora appunto questo editoriale di Wolfgang Münchau ci invita a riflettere, visto che probabilmente dopo le vacanze in autunno si parlerà finalmente di riforma dell'Unione Europea e della sua governance. Il Sole 24 Ore apre sulla notizia economico-finanziaria di ieri, che ha molte conseguenze. È una decisione del CIPE che sulla banda larga annunciata da Renzi, come avete sentito anche nei TG e nei GR di ieri, sono stati sbloccati i primi 2,2 miliardi per appunto finalmente dare la banda larga a tutto il nostro paese. Noi siamo un paese anche in questo campo della tecnologia e della comunicazione e della connessione tra persone un po' paradossale. Abbiamo il più alto numero di telefonini pro capite e li usiamo anche, abbiamo dei record per esempio nell'e-commerce, li usiamo per comprare di tutto di più, naturalmente parliamo di smartphones e anche di tablet, poi però per quanto riguarda internet e la banda larga che serve per utilizzare con facilità internet a casa dall'ufficio siamo molto indietro e da qui quindi questo stanziamento che potrebbe essere veramente una svolta per l'Italia. Il commento di Carmine Fotina è una partenza, ora ci vogliono norme rapide perché appunto si tratta di uno stanziamento del CIP e poi però come sempre diciamo ai grandi annunci o di riforme o anche in questo caso di stanziamenti concreti poi bisogna far seguito con o decreti attuativi o come dice appunto Carmine Fotina con ulteriori norme che siano però rapide e di rapida applicazione. Collegata un po' a questa notizia perché ci dà un quadro di tutto il panorama delle telecomunicazioni, l'annuncio arrivato ieri delle nozze tra Wind e 3 Italia e nasce così un colosso che avrà oltre 30 milioni di utenti. Il Sole 24 Ore ha l'analisi di questo accordo a pagina 2 e poi un commento di Antonella Olivieri, effetti positivi anche per TIM e Vodafone che sono in realtà i due principali concorrenti perché le quote di mercato ci fanno vedere che in Italia ci sono 93,2 milioni di utenze, la quota di mercato più alta è quella di Telecom con il 32,4%, segue Vodafone con il 27%, poi ci sono Wind e appunto 3 che hanno rispettivamente il 22,9% e il 10,6% ma che adesso unendo diventeranno di fatto il primo operatore. Un focus anche che trovate poi all'interno sull'Egitto di Ugo Tramballi che avete sentito anche nel GR sul canale di Suez e per quanto riguarda la questione Rai perché sapete che ieri è arrivato l'ultimo pezzo del puzzle, cioè il direttore generale, il famoso super manager di cui parlava Milena Gabanelli qualche giorno fa sul Corriere augurandosi che fosse scelto con criteri meritocratici, vedremo insomma se Campo Dall'Orto farà tesoro di quella che sicuramente ha nel campo della televisione, cioè l'esperienza. E qui i commenti sono due, uno di Franco De Benedetti che invita a ripensare anche alla privatizzazione perché la RAI non è stata privatizzata, è tuttora pubblica, controllata dal Ministero del Tesoro e dal Ministero e quindi sostanzialmente da qui tutte le polemiche sul ruolo della politica nel nominare il CDA, il Presidente e il Direttore Generale. E poi un altro commento di Marco Mele, riassetto e mercato, che ancora una volta Marco Mele ci fa proprio un reality check, cioè d'accordo adesso abbiamo finalmente sciolto questo nodo usando la legge Gasparri perché non si è riusciti a passare una nuova legge per nominare i vertici della RAI, quindi usando una vecchia legge che appunto è la legge Gasparri si è nominato questo CDA, il direttore generale, il presidente, i nodi però quali sono da risolvere e trovate poi l'analisi a pagina 6 del Sole 24 Ore, un riassetto che guardi al mercato e alla società. Pensate ad esempio, la cosa che mi ha colpito di più è che la RAI ha 21 sedi regionali che sono naturalmente un peso abnorme per i costi, da tempo si studia l'accorpamento ma poi non si riesce mai a farlo e questa è sicuramente una delle prime cose di cui dovrà occuparsi Campo Dall'Orto che è appunto il direttore generale. La Repubblica ha un'apertura diversa sul sud, oggi è stata convocata per oggi una direzione del Partito Democratico, sarà probabilmente l'occasione per parlare di molte cose, anche delle tante divisioni all'interno del Partito Democratico, ma in teoria il tema principale, anzi la ragione per la quale è stata convocata, è la questione sud. Abbiamo visto questa settimana i dati ancora su questa forbice enorme che c'è tra il nord e il sud del nostro paese, con il sud che ha circa la metà del PIL. Meno della metà del PIL e quindi un'emergenza, come risolverla di nuovo con finanziamenti è il grande tema, stanziamenti, addirittura si è parlato di un nuovo Ministero del Sud, ecco comunque questo dovrebbe essere ciò di cui parleranno oggi nella direzione del PD. Poi però c'è anche un accenno nel titolo principale del Sole 24 Ore alla vicenda RAI con l'attacco molto duro che il Movimento 5 Stelle e in particolare Beppe Grillo hanno fatto a Monica Maggioni, presidente della RAI. Anche in questo caso la fotonotizia è dedicata alla commemorazione della bomba su Hiroshima che c'è stata ieri in Giappone e con un'analisi di Federico Rampini perché Barack Obama potrebbe, che sapete è impegnato in un braccio di ferro con il suo congresso, con il suo Parlamento, per l'approvazione del trattato che sancisce la fine delle delle sanzioni economiche all'Iran e che ha una serie di implicazioni sulla questione nucleare. E, il titolo dell'analisi di Francesco Rampini, di Federico Rampini, un gesto ad alto rischio, questa tentazione, questa che viene definita l'ultima tentazione di Obama, andare in visita a Hiroshima per mettere in guardia anche in questo modo contro i rischi di una proliferazione atomica. Il Messaggero titola su quello che viene definito il super web, cioè appunto la banda larga, con questo piano da 12 miliardi, perché in realtà banda larga è già un modo vecchio di definire questo internet super veloce, sarebbe una banda ultra larga. Renzi ha spiegato che si tratta di un finanziamento in parte fatto da privati, perché naturalmente sono gli operatori poi che devono costruire queste infrastrutture, e in parte fatto con soldi pubblici. E naturalmente c'è anche qui un accenno, perché le due questioni sono collegate, a questa fusione nel campo della telefonia mobile tra Wind e tra Italia. La fotonotizia però è dedicata alla staffetta del nuoto, con questo trainata da Federica Pellegrini, che ieri appunto la staffetta del nuoto nella 4x200 ha vinto la medaglia d'argento. La Stampa, in una fotonotizia diversa dedicata al canale di Suez, e invece il titolo è sulla Rai: Campo Dall'Orto, direttore generale, prove di dialogo Renzi-Berlusconi. Per oggi vi vorrei leggere il buongiorno di Massimo Gramellini, che prende spunto da una vicenda di uno scampato suicidio che, non so, mi ha messo un po' di ottimismo, e si intitola questo buongiorno: come stai? Cosa farei se vedessi un uomo sul cornicione di un ponte con i piedi pronti al grande balzo? Jamie Harrington, dublinese di 16 anni, quindi una vicenda che viene dall'Irlanda, è salito sul ponte, si è seduto accanto all'aspirante suicida e gli ha gettato al collo solamente due parole: «Stai bene?». Per tutta risposta l'uomo si è messo a piangere. In tre quarti d'ora di monologo ha concentrato le miserie di una vita, la sensazione di essere invisibile, inutile, inadeguato. Jamie gli ha lasciato finire il racconto e poi gli ha detto: «Stanotte non riuscirai a dormire se ti sapessi in giro da solo per la città. Chiamerò un'ambulanza perché ti porti in ospedale». L'uomo alla deriva si è lasciato trarre in salvo, più per non deludere il nuovo amico che per altro. Si sono scambiati i numeri di telefono. A tre mesi da quella notte lo smartphone di Jamie ha suonato e lui ha subito riconosciuto la voce. «Stai bene? Sono state quelle due parole a salvarmi. Com'è possibile che ti siano bastate due parole?» gli ha chiesto Jamie. «Immagina se per tutta la vita non te le avesse rivolte mai nessuno». Stai bene. Nel comunicare col prossimo, persino con le persone amate, si preferisce usarne altre più intrusive. Com'è andata? Con chi sei stato? E quando si chiede a qualcuno come sta, è solo per recitare una formula di cortesia che spesso non prevede di prestare attenzione alla risposta. Eppure, se pronunciate a cuore aperto, quelle due parole pare facciano miracoli. L'uomo che voleva togliersi la vita ne ha appena creata una nuova, con la collaborazione decisiva di sua moglie. Dice che aspettano un maschio e che lo chiameranno Jamie. Quindi questa vicenda, insomma, che appunto personalmente mi ha messo un po' mi ha dato un po' di serenità in questa mattina venerdì di agosto, raccontata nel Buongiorno, viene da Dublino, dall'Irlanda, da Massimo Gramellini. Vi segnalo la prima pagina del Secolo XIX, primo perché ieri è stato anche annunciato il piano, ne abbiamo parlato, per mettere finalmente mano al dissesto idrogeologico del nostro paese, e siccome Genova è una delle città che nei mesi scorsi ha avuto la famosa alluvione, quindi i danni più grandi, ma che naturalmente è un'alluvione che riflette questo dissesto idrogeologico, e allora il Secolo XIX, che è il quotidiano di Genova, racconta appunto che arriveranno presto fondi per 323 milioni per finalmente mettere in sicurezza il Bisagno e altri torrenti a rischio. E poi c'è un aggiornamento sulla vicenda di cui abbiamo parlato anche noi nei giorni scorsi, cioè quel raid omofobo su un autobus di Genova nella notte, e l'aggiornamento è sul Secolo appunto, e con la reazione del sindaco il sindaco Doria vuole assolutamente sapere esattamente come si è comportata l'AMT, cioè l'azienda dei trasporti locali, perché ieri abbiamo detto che l'autista è stato sospeso, l'autista ha visto quello che stava succedendo ma ha deciso di non intervenire. Questo naturalmente erano sette persone molto aggressive, però quello di cui lo si accusa è di non aver nemmeno per esempio tentato di chiamare la polizia, ed è stato messo in ferie forzate. Questo è quello che abbiamo visto ieri. Un'ultima segnalazione di cronaca dal Secolo XIX che ho trovato abbastanza divertente: il principe Alberto di Monaco Abbiamo sentito nei giorni scorsi le principesche, appunto, nozze tra Beatrice Borromeo e invece uno dei figli di Carolina di Monaco, sorella di Alberto. Ecco, il principe di Monaco è stato a Genova in ottobre per una visita di Stato con moltissime persone al seguito. È andato a mangiare alla Manuelina, che è uno dei ristoranti più famosi vicino a Genova, dove si mangia una squisita focaccia al formaggio. Il conto è di 15.000 euro. Questo conto, dicono i ristoratori della Manuelina, dal principe e dalla sua corte non è mai stato pagato. E adesso, insomma, si cerca, addirittura i ristoratori si sono rivolti a un magistrato, hanno detto: fate qualcosa voi, perché vorremmo appunto che il principe saldasse il suo debito. Ci lasciamo un attimo, però ci ritroviamo subito dopo per le altre notizie dai giornali di oggi. In primo piano. Ancora buongiorno, buon venerdì da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali. L'Avvenire ancora una volta è quello che segue con più regolarità, con più assiduità, con più coerenza, potremmo anche dire, le vicende di cronaca che riguardano l'immigrazione, e quindi oggi ha un aggiornamento su quel barcone che si è rovesciato al largo della Libia. Il mare non restituisce i 200 dispersi, questo il titolo: sbarcati a Palermo i sopravvissuti, arrestati 5 scafisti. Il titolo principale però della pagina è dedicata a un appello fatto ieri da Papa Francesco al segretario della CEI in visita in Giordania, e in generale un appello perché la comunità internazionale non resti inerte di fronte alle disumane persecuzioni contro i cristiani, e soprattutto appunto questo si rispecchia nella quantità di profughi siriani e iracheni che sfuggono dalla persecuzione. E il titolo quindi: crimini nel silenzio. La prima pagina dell'Unità, dedicata a quello che dicevamo oggi, questa riunione del PD per parlare soprattutto di Sud, e quindi il titolo: direzione Sud. Oggi il vertice: Renzi, basta piangersi addosso, noi cambiamo con i fatti. Poi un accenno a questo via libera del governo al piano sulla banda larga con questi 12 miliardi di investimenti. La prima pagina di Libero si concentra su una delle tante misure nuove che riguardano il fisco, cioè come cambiano le detrazioni possibili. Il titolo: ci tassano le badanti. Secondo l'analisi fatta da Libero, il governo vuole tagliare gli sgravi fiscali e a rischio ci sono agevolazioni per banche e imprese, ma anche per le famiglie, comprese quelle alle prese con problemi di invalidità e malattia, e per l'autotrasporto con relativo aumento dei prezzi dei prodotti. Il commento di Maurizio Belpietro è invece sulla RAI, che non lascia spazio fin dal titolo a dubbi sull'opinione del direttore di Libero. Lo schifo RAI intollerabile, tollerabile solo se è la via che porta al Nazareno economico. Questo Nazareno economico è un patto invocato da Libero e da alcuni altri, come giornale di chiaro orientamento di centrodestra, ma anche da molti esponenti del centrodestra, che ci sia appunto un accordo, così come pareva ci fosse e venne definito l'accordo del Nazareno sulle riforme costituzionali, appunto un accordo sulle misure economiche tra centrodestra e centrosinistra. Vi segnalo, anche un po' colpevolmente, non cito mai Italia Oggi, che è un quotidiano economico, un po' il gemello di MF, che invece è più un quotidiano finanziario. Oggi la prima pagina dedicata al fisco, anche in questo caso con tutte le riforme, ma vi segnalo l'editoriale di Pierluigi Magnaschi, perché per una volta è veramente, sembra che abbiamo letto talmente tanti commenti negativi a queste nomine RAI, almeno sentire una voce che invece le sostiene, in particolare per quanto riguarda quella di direttore generale di Monica Maggioni. Vi leggo le prime righe, poi l'editoriale continua a pagina 5. La nomina di Monica Maggioni alla presidenza della RAI rappresenta un salto di qualità del tutto inconsueto nella storia non solo della RAI ma dell'intero paese. Innanzitutto perché a questo ruolo viene promossa per la prima volta nella storia di quest'ente una persona che non solo conosce il settore che dovrà guidare, ma che in esso ha già realizzato, partendo in pratica da zero, RAI News 24, il canale di informazione continua che si è subito posto a livello internazionale, adottando innovazioni tecnologiche e di narrazione che i vecchi TG Rai, con la parrucca, timorosi di ogni innovazione e tutti impegnati dalla nefasta par condicio a somministrare l'informazione con il bilancino del farmacista, non avevano ancora adottato. La nomina di Maggioni inoltre è importante perché non è stata nominata in quanto donna, ma perché è capace. In un mondo persistentemente maschilista, basti notare quante sono le donne nel consiglio di amministrazione della RAI nominato ieri l'altro, tanto non per andare lontano, e rilevare il miserrimo curriculum dell'unica donna presente, far largo alle donne non deve e non può significare sistemare delle donne qualsiasi a posti di responsabilità, ma sistemare in questi posti delle donne capaci che, a dispetto di quanto pensano i politici, tutti presi dalle loro conventicole, sono oggi numerosissime in Italia. E mi sembrava appunto giusto dare spazio anche a una voce, un controcanto in questo coro che si è levato contro le nomine della RAI e anche contro Monica Maggioni. Il Giornale titola su una questione a cui abbiamo accennato ieri, cioè questa famosa inchiesta su Roma, questo famoso rapporto su Roma che dovrebbe presentare il ministro dell'interno Alfano. È già slittato una volta, adesso slittato di nuovo al 27 di agosto. Renzi in sabbia, la verità su Roma, questo è il titolo del Giornale, con un commento di Alessandro Sallusti che inizia così: la verità non ce la vogliono dire. Renzi ha ricevuto ieri la relazione del ministro Alfano sulle presunte, si fa per dire, infiltrazioni mafiose del comune di Roma, e invece di portarla come previsto in consiglio dei ministri per adottare le conseguenze e decisioni, l'ha chiusa nel cassetto. Dalla serie di lettere d'amore, che è un po' il gioco dell'estate del Giornale, iniziato una decina di giorni fa, oggi c'è una lettera di Napoleone alla sua prima moglie Giuseppina. Quale amante ti ruba il tempo per scrivermi? La trovate poi a pagina 19, e la risposta è impossibile, perché è fatta da una persona che vive oggi, a Napoleone, che ovviamente vive solo nei nostri ricordi e nei libri degli storici. Sei tu che preferisci la guerra ai baci, di Annalisa Chirico. Il Manifesto, l'orto di casa sua, l'orto scritto con la O maiuscola perché il riferimento è a Campo Dall'Orto, il direttore generale della RAI. Il nuovo CDA RAI di fede renziana porta a compimento il controllo del servizio pubblico da parte del governo. Campo Dall'Orto, con un passato a MTV e un posto d'onore alla Leopolda del Premier, eletto direttore generale di Viale Mazzini, con il sì di Berlusconi dopo il via libera di Maggioni alla presidenza. Il Manifesto però è l'unico giornale che mette in prima pagina con questa enfasi quello che è successo ieri, cioè che è morto, ed è il terzo decesso in pochi giorni in Puglia, un bracciante, per il troppo caldo probabilmente, era un bracciante tunisino. L'inferno del lavoro dei braccianti, il servizio poi a pagina 8. La notizia è in prima pagina anche sul Fatto Quotidiano, un altro morto nella Puglia dei braccianti, però appunto non con l'enfasi che gli dà il Manifesto. Il Fatto Quotidiano sceglie di titolare sulla RAI: pranzo dall'orto Maggioni, i nuovi TG sono già serviti, con un po' una retroscena per spiegare come adesso noi stiamo ipotizzando che sia ancora tutto da decidere. In realtà molte cose sarebbero già state decise, e farebbe pensare che appunto queste nomine a loro volta erano decise da tempo e quasi sicure, mancava giusto l'annuncio del puzzle. Lo dico così perché un ascoltatore mi ha scritto un SMS dicendo: pronunciatelo nel modo giusto. È vero, puzzle è una parola inglese, si pronuncia appunto così. Io a volte dico puzzle perché così mi sembra che in italiano forse ormai siamo abituati a dire così. Comunque, questioni minori tutto sommato. Il titolo principale però del Fatto Quotidiano è dedicato alla riforma del Senato. Ieri l'abbiamo letta, questo intervento mandato direttamente dall'ex Presidente della Repubblica Napolitano al Corriere della Sera, che invitava a lasciare la legge di riforma del Senato, di riforma costituzionale, quindi così com'è. E quindi il titolo del Fatto Quotidiano: Napolitano si crede Mattarella, sponsorizza il Nazareno bis. Anche qui un po' di retroscena su cosa sta dietro questo intervento di Napolitano e sulla reazione che avrebbe avuto Mattarella, non proprio felicissima di vedere appunto il suo predecessore prendere un ruolo così importante nel dibattito sulla riforma del Senato. Ultima prima pagina, quella della Gazzetta, il titolo principale è dedicato alla Fiorentina: un'estate viola. La rifondazione della Fiorentina è partita con i successi su Barcellona e Chelsea, e gli esperti sono sicuri, squadra tosta, può andare avanti. Però diciamo il palchettone, che è quello che noi in gergo lo chiamiamo così, il titolo che sta proprio sotto il nome della testata, il mondo di fede. Pellegrini trascina all'argento la 4x200, e poi un accenno al fatto che invece il Sette Bello, cioè la squadra di pallanuoto, non è riuscita a conquistare la finale, si batterà però in semifinale per la medaglia di bronzo. Passiamo alle pagine interne, parlavamo del dissesto idrogeologico e di questo piano per mettere finalmente mano appunto a questo pericolo che incombe su molte regioni italiane. Sul Sole 24 Ore un'analisi di Alessandro Arona con tutti gli stanziamenti per questo piano antidissesto da 800 milioni, il governo scende in campo per ridurre il rischio, individuate 32 opere nelle aree metropolitane, qui vengono tutte appunto elencate, sono quelle più urgenti naturalmente. Dalle pagine di Finanza abbiamo parlato nei giorni scorsi dei conti delle due più grandi banche italiane, Intesa San Paolo e Unicredit, che hanno entrambe pubblicato le loro semestrali e sono utili, indici di redditività e ricavi record. Ieri è stata la volta di MPS che sta ancora cercando di riprendersi, insomma ha rischiato naturalmente di fallire, questo è il più vecchio istituto bancario italiano. MPS torna all'utile nel semestre, questa è la semestrale appunto pubblicata ieri, e Cesare Peruzzi da Siena ci spiega i conti nel dettaglio e poi anche analizza in un altro articolo conti a posto, ora è più facile trattare una fusione perché appunto Monte dei Paschi di Siena potrebbe anche in questo piano di rilancio guardare alla possibilità di una fusione con un altro istituto italiano o straniero. E poi naturalmente la nostra guida pratica per la famiglia, come avete sentito anche nel GR, oggi ultima puntata dedicata alla casa, perché poi settimana prossima il tema cambierà, e per quanto riguarda casa e condominio, per quanto riguarda la casa un approfondimento sui permessi edilizi e come funziona l'autocertificazione, per quanto riguarda invece il condominio un approfondimento sul contenzioso. E poi in edicola col Sole 24 Ore oggi il nostro mensile, uno dei due magazine che ha il Sole 24 Ore, l'altro è Il, escono uno a due settimane di distanza, sempre di venerdì tutte e due. Questo venerdì è How to Spend It di agosto, che è dedicato soprattutto ai viaggi. In copertina c'è una moto che fa una curva, perché tra i tanti articoli all'interno c'è un reportage di Corrado Formigli, che oltre a essere un giornalista di La 7 è anche un appassionato di moto e quindi ha fatto un viaggio in moto e ce lo racconta. Passiamo alle pagine interne del Corriere, dove c'è un approfondimento molto interessante sul welfare. Noi, insomma, il welfare in Italia è per certi versi un modello, ripeto sempre che per quanti guai abbia la sanità pubblica italiana è comunque una delle migliori al mondo. Ma di welfare vuol dire anche pensioni, vuol dire assistenza in generale. E allora Enrico Marro ci racconta questo che definisce il paradosso della spesa per assistenza, il welfare al contrario. Al 40% più povero delle famiglie italiane va meno di un quarto del totale, quindi meno che proporzionale gli stanziamenti. Vi segnalo poi di Massimo Gaggi, che anche ieri si è occupato della corsa alle presidenziali, le prossime presidenziali americane, che in questo momento vedono da una parte protagonista soprattutto Hillary Clinton per quanto riguarda i democratici, e poi si vedrà chi altro deciderà di candidarsi, mentre dalla parte dei repubblicani ci sono già 17 candidati. I giornali italiani non riescono a darne notizia oggi, probabilmente ne daranno notizia domani, chi è interessato su internet o su Twitter trova già tutto. Ieri c'è stato un dibattito su Fox News tra 10 dei 17 candidati, con show e liti e urli e schiamazzi, deve essere stato anche abbastanza divertente. Ma a proposito appunto di questa corsa dei repubblicani, Massimo Gaggi ci spiega quelle famiglie repubblicane tra immigrate e top model, cosa ci raccontano le vite private dei candidati presidenziali, perché a parte Donald Trump, che è un po' quello che forse tutti noi conosciamo, ce ne sono altri che soprattutto in Europa magari conosciamo meno, per esempio Scott e Tonette Walker. Scott Walker è il governatore del Wisconsin e è uno appunto dei candidati presidenziali, e racconta la sua storia e come spesso accade nelle corse presidenziali, il ruolo della famiglia su come per esempio in questo caso lui è sposato con una donna che ha 12 anni più di lui, e questo già è un aspetto che viene molto indagato, e la sua particolarità, hanno due figli, quindi le vite private dei candidati vengono spesso messe sotto il microscopio, così ci racconta Massimo Gaggi. Ci lasciamo però un attimo per gli aggiornamenti sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno, buon venerdì da Giulia Crivelli. Eravamo sulle pagine interne dei giornali. Vi segnalo dalla Repubblica una intervista che è apparsa sulla Süddeutsche Zeitung La Repubblica ha tradotto ad Ai Weiwei, che è uno dei più famosi artisti contemporanei cinesi, ma possiamo anche chiamarlo dissidente perché è stato spesso arrestato e per molto tempo gli è stato tolto il passaporto, adesso gli è stato ridato, può ricominciare a viaggiare, e in questa intervista parla di tutto, si sente finalmente appunto libero di fare anche alcune dichiarazioni contro il governo. Il titolo scelto da Repubblica è: sono un pericolo per il regime di Pechino, se la Cina non cambia finirà per crollare. Si toccano alcuni temi molto importanti nel considerare come funziona la Cina di oggi, che sulla carta è ancora un paese comunista, ma poi sappiamo che ha anche abbracciato abbracciato per molti versi il modello capitalistico, a partire naturalmente dalla crescita delle borse di cui abbiamo seguito le vicende soprattutto settimana scorsa, ma i nodi restano soprattutto quelli della vita democratica, della possibilità appunto di dissentire e di come viene trattato chi cerca di dissentire, che magari ha molta eco a livello internazionale perché è un artista come Ai Weiwei conosciuto appunto anche al di fuori della Cina. Una divertente, interessante anche, ma anche con basi scientifiche, analisi di Elena Dusi, che su Repubblica si occupa quasi sempre di temi medici o scientifici, sul cosiddetto effetto placebo. Ecco perché è una vera medicina. Sapete che a volte, se non ci viene detto che una medicina magari non è quello che pensiamo, ma noi pensiamo che sia un toccasana, magari stiamo meglio per davvero, proprio perché non stiamo parlando naturalmente di malattie gravissime, anche se tutti conoscono anche gli effetti del buon umore, dell'affrontare le cose con positività anche in malattie molto serie come il cancro, però nel caso magari di malattie comunque curabili, a volte ci si scopre guariti e si pensa di aver preso una medicina, in realtà era appunto soltanto un placebo. Ecco perché è una vera medicina. E poi con un'intervista a Roberto Bassi, che è ex primario di dermatologia all'ospedale civile di Venezia e autore di un libro che si chiama Effetto placebo, se il paziente ha fiducia si può alleviare un caso su due. Nei giorni scorsi, lo ricorderete, abbiamo parlato del narcotraffico, della proposta di legalizzare alcune droghe leggere, e addirittura alcuni si spingono a dire anche la cocaina, per esempio, perché essendo un traffico illegale è soprattutto la voce numero uno dei bilanci di molte organizzazioni criminali, da qui quindi appunto legalizzarla per togliere l'ossigeno alle organizzazioni criminali. E a proposito di narcotraffico, uno dei paesi che è più schiacciato dai narcotrafficanti è il Messico. E allora La Stampa ci pubblica un reportage di Annabelle Hernandez: il mio Messico corrotto ha ucciso la libertà. E si parla anche di tutti i giornalisti, come appunto Annabelle Hernandez, che hanno ricevuto minacce, la cui vita è a rischio perché continuano a denunciare questa situazione gravissima del potere dei narcotrafficanti nel paese e anche delle connivenze con il governo. Sulla sanità torna oggi l'Unità, e so che tra l'altro ne parlerà anche Irene in Spunti di Vista, con due pagine in cui si spiegano alcune delle misure, degli effetti immediati dei tagli da 2,3 miliardi che sono stati annunciati, però sapete che in teoria si dovrebbe arrivare addirittura a 10 miliardi di tagli per la sanità, naturalmente mirati nelle intenzioni a togliere tutte le sacche di inefficienza. Gli esami che lo Stato non pagherà più. Il Ministero della Salute ha preparato la bozza del documento che prevede il taglio agli sprechi su una serie di prestazioni. Sono 180 le voci che escono dal regime di gratuità assoluta, resteranno a costo zero solo per scopi specifici. Appunto, due pagine in cui si spiega come prenderà forma questa riforma annunciata, con anche un'intervista a Cesare Berra, un diabetologo che lavora nell'Interland milanese, che dice: questo non è un brutto paese per ammalarsi. Come appunto dicevo prima, siamo ancora, per fortuna abbiamo ancora un sistema sanitario nazionale che, con tante pecche e tanti difetti, però funziona molto meglio che in tantissimi altri paesi. Dal Giornale una curiosità: il verbo Merkel significa non decidere, questo neologismo. In Germania spopola l'espressione appunto Merkeln, che vorrebbe dire non decidere, un'ennesima insomma accusa forse anche un po' ingiusta e ingenerosa alla cancelliera, che più che non decidere ha dovuto sicuramente scendere a molti compromessi con il suo partito, con l'opposizione all'interno del suo paese e con tanti anche altri paesi che sedevano al tavolo dell'Unione Europea durante i negoziati con la Grecia. E allora però il Giornale, sempre in questo gioco, Dice, potremmo fare la stessa cosa in Italia. Allora, per esempio, landineggiare vorrebbe dire, da Landini naturalmente, segretario della FIOM, vorrebbe dire avere talento nella difficile arte di parlare nei talk show infuriandosi, interrompendo, monologando. Bersaneggiare invece sarebbe un tipico atteggiamento della sinistra PD che riesce a favorire sempre il proprio avversario politico. E infine insalvinare sarebbe insultare il leader della Lega perché xenofobo e razzista, tipico dei commentatori di sinistra. Sempre dalle pagine interne dei giornali segnalo dall'Avvenire e rispondo anche all'ascoltatore che dice che non ho dato abbastanza enfasi alla notizia sui cristiani perseguitati, più che dire che era, anzi addirittura mi accusa di averla trattata come una notizia di quart'ordine, più che dire che è la notizia di apertura dell'Avvenire e citarla e spiegare come sia sempre meritorio questo sforzo dell'Avvenire di toccare temi che gli altri giornali non toccano, non so cosa potessi fare, ma Pierpaolo è un ascoltatore molto esigente, o comunque da me esigerebbe, sembra sempre cose diverse da quelle che faccio. In ogni caso, a me sembra di aver dato la giusta enfasi a questa notizia. E a proposito di questo, a pagina 4 l'Avvenire ha un approfondimento, come dicevo, sul naufragio, con un racconto di un'infermiera di Medici Senza Frontiere che racconta di aver visto proprio che nei suoi occhi questo naufragio. Sapete, il barcone al largo della Libia che si è rovesciato, molte persone, alcuni corpi sono stati ritrovati, ma soprattutto ci sono ancora 200 dispersi, non si sa mai quante persone esattamente ci siano a bordo di questi barconi, i bilanci sono sempre provvisori, ma con un numero di vittime sempre altissimo. E poi altri testimoni ci raccontano lo sbarco dei superstiti a Palermo e ci spiegano anche che tra questi dispersi ci sono anche molti bambini. Torniamo sulla vicenda di Cecil, il leone ucciso da un cacciatore americano, la notizia è arrivata settimana scorsa. Vi segnalo oggi due approfondimenti. Uno è su Repubblica di Adam Gopnik, che è uno scrittore americano, uno dei principali contributors del New Yorker, infatti questo è un articolo tradotto dal New Yorker, molto bello, due pagine, a pagina 30 e 31, tutti pazzi per Cecil. La morte brutale di un leone ci turba più delle sofferenze di un essere umano. Perché, si chiede Gopnik? Perché la sua uccisione stuzzica sentimenti profondi di ingiustizia. Qui non c'è l'uomo contro una bestia, ma l'animale contro una macchinazione. L'iniquità di un dentista senza scrupoli ci ricorda il senso di colpa della nostra supremazia culturale. Ecco perché ci scandalizziamo. È un'interpretazione, naturalmente, ma insomma un ulteriore spunto di vista, come direbbe Irene. E poi dal New York Times invece, sempre tradotto su Repubblica, lo spunto di vista di un africano, Godwell Zuo, che dice: io l'africano vorrei lacrime per chi muore di fame. Quindi appunto ricordare sempre di mettere tutto in proporzioni. Su Cecil vi segnalo anche l'articolo di Giulia Pompili sul Foglio: anche i leoni vanno in paradiso, la macellazione di Cecil, i traffici di scheletri e corni, la ricerca di facili trofei africani. C'è ancora chi riesce a salvare gli animali dai bracconieri, e Giulia Pompili ce li racconta, e anche dagli animalisti chiodati. Era però insomma l'ultima segnalazione, so che Irene vi vuole stuzzicare con quello che verrà dopo, e soprattutto, come abbiamo detto, toccherà molte questioni che poi alla fine ci riguardano tutti. Grazie Giulia, tu ritorni domani, quindi non ci saremo con spunti di vista, ma la tua rassegna stampa c'è a che ora? Domani stessa ora, 7:15, invece domenica dormiamo tutti un po' di più e sarà dalle 8:30 alle 9. Perfetto, e dunque abbiamo seguito la lettura dei quotidiani. Noi oggi parleremo di un problema tutto italiano, cioè quello dello spopolamento. Pensate che si è arrivati, per contrastare il problema, a un caso esemplare a Sadali, è un villaggio dell'entroterra sardo, è in provincia di Cagliari, ha 900 abitanti. L'amministrazione locale paga le giovani coppie per trasferirsi stabilmente nel paese, cioè da buoni spesa di 200 euro al mese per 2 anni, destinati a quelle famiglie che scelgono di spostare la propria residenza. Ieri poi abbiamo sentito anche di un comune in provincia di Reggio Calabria dove il sindaco ha imposto il divieto di morire, proprio così, cioè vieni multato anche se violi questa ordinanza, perché con solo 500 persone e si mette a rischio la sopravvivenza della comunità. Ebbene, queste realtà sono ben conosciute dal Ministero dell'Interno, che ormai da anni organizza, senza che nessuno ne parli, Il ripopolamento dei borghi spopolati, ci sono 18.765 persone che stanno beneficiando di questo programma e sono migranti, sono profughi. Parleremo proprio di questa microaccoglienza perché è la più affollata, la meglio organizzata, i sindaci sono desiderosi di farne parte, fanno gara per avere un pezzo di questa programmazione e è un tema che affronteremo dalle 9 alle 8 invece. Il dramma di 130 famiglie italiane costrette da 22 mesi a vedere i figli adottati in Congo solo attraverso una fotografia. Ora la linea al notiziario e torneremo subito dopo in diretta.